voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Sto qua, beccate questa, Luciani. La Zanzara. Caro Parenzo, dovremmo intonare la nostra solita canzone. La nostra solita canzone, anzi il nostro solito coro quando vogliamo esaltare qualcuno. E allora via! Zi, chi, chi, zi, chi, chi. Ma dove sei? Dove sei? In una caverna? Dove sei? No, sono a fare il solito grande viaggio popolare nell'Italia profonda, nell'Italia vera, nell'Italia che lavora, nell'Italia che produce, nell'Italia che si muove, nell'Italia della mobilità. Dai, insomma, stai l'Italia sul... del stai... torpedone. Stai sul torpedone Siena-Roma. L'Italia, l'Italia che viene raccontata sotto la pioggia, un'Italia di gente vera. Ci sono sei persone su questo torpedone. Sei. Ancora sei? Ma non va in fallimento sta azienda che fa il trasporto tra Siena e Roma? Smettila, menagramo, smettila, smettila. Insomma, al di là del torpedone di Parenzo, il viaggio tra Siena e Roma, beh, c'è il mitico professore Antonio Zichichi, per chi non l'abbia ascoltato ieri sera, ora tarda qui alla Zanzara, il quale dice di essere felice se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari. Se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, lei sarebbe contento? Felice, no, contento. Però attenzione, centrali nucleari controllate, costruite da veri scienziati, non per esempio io. Beh, ti credo, centrali sicure, non abbandonate, non abbandonate. Felice sarei, felice sarei se fosse piena di centrali nucleari. Ancora, ancora sul nucleare, ancora, eh? Io difendo l'energia nucleare, sì, perché sarebbe, veda, la sicurezza delle centrali dipende dalle scelte che determinano chi comanda in quel settore. L'energia nucleare dà a quella forma di materia vivente chiamata io e lei un milione di volte. Immagini di avere una macchinetta, mette un euro ed esce un panino, un'altra macchinetta identica mette un euro ed escono un milione di panini, quale sceglierebbe lei? Questo vuol dire energia nucleare. Però energia nucleare in mano a veri scienziati, non a persone che fanno scienze per sentito dire. Hai capito? Tutto facile, cioè se devi scegliere tra mettere un euro in una macchinetta che ti dà un panino o mettere in euro in una medesima macchinetta che ti dà un milione di panini, allora, tu Parenzo, così, cosa scegli? Vabbè, certo, quella di un milione di panini io non me li mangio, un milione di panini. Vabbè, ma comunque, insomma, è abbastanza chiara la cosa, no? Cioè, l'energia nucleare è sicura, anzi più sicura delle altre cose, dice Zichichi, dunque no, ma ti fa guadagnare a di più, parità di condizioni esattamente ti fa guadagnare di più. Polemiche, polemiche, polemiche, come se non avesse già sollevate alcune lo stesso Zichichi, 800240024, e però. Abbiamo naturalmente la questione della legge elettorale, siamo a un passo dalla rottura, ovviamente tutti in quel torpedone, tutti nelle piazze d'Italia, negli angoli, nei bar, nei crocicchi, la gente ne discute, dov'è la legge elettorale, perché Napolitano non interviene, non gliene frega niente a nessuno. E insisto, trovo assurdo, come sembra, che il Presidente della Repubblica possa fare un messaggio, come sembra, dai rumors che ci sono, un messaggio alle Camere o alla Nazione, vedremo, eccetera, sul mancato accordo con la legge elettorale. Ma di cosa stiamo parlando? Come se una legge elettorale nuova abbia le stimmate di una legge elettorale migliore di quella che c'è già. Chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? Napolitano? Ti rendi conto? Vabbè, lascia perdere la pantomima. La pantomima è evidente. La pantomima. No, ma che pantomima? La barbarie. Solo una cosa, perché non mi interessa nulla la legge elettorale. La barbarie di un paese che ogni volta che si va a votare deve ridiscutere di legge elettorale. Negli Stati Uniti c'è la stessa legge elettorale da sempre, in Inghilterra pure, in Francia pure, in Germania. No, in Francia pure. No, però comunque insomma. Sì. Ma noi perché siamo così coglioni, detto con rispetto, che ogni volta che bravo si va alle urne si rimette in discussione la legge elettorale, ogni volta si deve cambiare. In ogni questo volta. Caso, in questo caso, per entrare nel dettaglio, Berlusconi alla fine si è tirato indietro dall'accordo. Legittimo, naturalmente. Perché lo spiega La Russa. Sta riflettendo, sentite, sta riflettendo. Ma lei non ha parlato con Berlusconi in questi giorni? Sì, sì, ho parlato. E chi l'ha detto? In questi giorni, sì, in questo sì periodo. Beh, tra il 24 e oggi 3. Che sta riflettendo, che non ha deciso, che ha delle idee molto precise, ma sta riflettendo. Beh, ritagliatemelo questo qua. Cosa le ha detto Berlusconi? Sta riflettendo, non ha deciso. Una roba incredibile, cari ascoltatori della Zanzara. Una cosa pazzesca. Stai riflettendo. Sono già le 10. Barbato contro De Girolamo. Divertiamoci un po', dai. Barbato De Girolamo ieri sera a Quinta Colonna. Barbato ospite fisso a Quinta Colonna. Lì guardano gli ascolti, no? Fanno Barbato sì. Quanto produce in termini di ascolti? La linea, no? La curva sale? A rinvidiamo Barbato. Giusto, per carità. Mica sto dicendo che è sbagliato. 7 anni. Sì, è buon per lei. Invece erano quelli del tuo partito che dell'82 che di oggi che? Il tuo partito che è come ma lei non c'è il partito. Ma se ciò siete partiti inutili, siete dei partiti che non servite. Ma che dici? Si fermi un attimo, la colpa sia di destra che di sinistra. Non vi accorgete di questo? Ma ve ne siete accorti che gli italiani vi schifano i partiti perché non siete capaci di dare delle risposte? Lo sapete? Ma Barbato è a macchinetta, che fa? Eh? Basta, completamente basta. Barbato è a macchinetta. Nell'82 fate schifo tutti. Ma nell'82 non c'era Forza Italia, non c'era nulla. È partito a macchinetta. Gli dicono parti a macchinetta a un certo punto. Tam! E parte a macchinetta. Rotondi a Giachetti. Dopo c'è un ospite pronto, però è da sentire questa cosa. Rotondi, ve lo ricordate Rotondi, no? Tu te lo ricordi Rotondi, Parenzo? Rotondi, come? Siamo un po' scomparsi, cioè, quel signore è stato ministro dell'attuazione del programma. Ministro di cosa? Dell'attuazione del programma. No, dai, non mi dire più queste cose. Io voglio una sola cosa dalla prossima legislatura: che non ci sia più il ministero per l'attuazione del programma. Vi giuro. Che se Bersani, o chi per lui, Monti, Grillo, non so, a Palazzo Chigi mi rimette il ministero per l'attuazione del programma, mi incazzo sul serio questa volta, Mi indigno per la prima volta nella mia vita, ve lo assicuro. Bravo. Se mi rimettono il ministero per l'attuazione del programma. Beh, Storace, per entrare in Parlamento anche in coalizione dovrebbe prendere il 4%, che è il sogno dei sogni. Allora, aspettate. E quindi noi cambiamo la legge per non far entrare come avete Storace, fatto esattamente nella scorsa legislatura. Vabbè. Cambiate la legge per le cose che vi convengono. Mi pare che tu vuoi cambiare la legge per cacciare Storace dal Parlamento. No, io non voglio cambiare nulla. Io non voglio cambiare. Se hai fatto credo la dieta per cacciare Storace, non è una causa, no, fatto la dieta. La dieta, secondo Rotondi, Giachetti ha fatto la dieta. Io più volte ho detto a Giachetti smettila con questa buffonata dello sciopero della fame. Sì, la sciopero della fame. Io l'ho detto in faccia a Roberto Giachetti, che è un mio amico. Stai facendo un grandissimo errore, anzi una cazzata. Non si fa lo sciopero della fame per la legge elettorale. Non ci si può ridurre a scheletro per una cosa come la legge elettorale. Una cosa assurda, io l'ho detto in faccia. Però adesso non ha fatto la dieta. Mette il corpo. Sì, ma lascia perdere queste buffonate. Non ha fatto. Ma che buffonate? Un uomo per che me è una buffonata. Io la sua vita per le istituzioni democratiche. Ma quale istituzioni democratiche? Ma che dici? Quale istituzioni democratiche? Beh, ma la legge elettorale piace o non piace, è una regola base. Ma che c'entra? Perché non c'è adesso? Perché non c'è la legge elettorale adesso? Che bisogna fare la sciopera? È una lotta classica, radicale, gandiana, non violenta. Vabbè. Comunque in ogni caso, non fa la dieta. In ogni caso non fa la dieta. Chi è il coglione che ha detto che fa la dieta? Rotondi. Ah, scusa Rotondi, però hai poi bisogna arrabbiarsi con un altro personaggio siciliano. Però dopo, è con noi Michele Scandroglio, deputato del PDL. Buonasera. Buonasera. Come sta, Scandroglio? Sto abbastanza bene, anche se giro con una stampella. Lo so, mi hanno detto che lei è caduto, no? No, caduto in moto, ahimè. In moto, perché pure lei va in moto. Scaiola, vado in motorino. Ma i deputati non devono andare in motorino, sono preziosi per la nazione, non si possono fare male, Scandroglio. Guardi, da quando ho la stampella sono tutti contenti. Perché? Appena sanno che sono un deputato dicono bene, fatto bene. Ah, nel senso che pensano che qualcuno gli ha... sì, esatto. Scusi un attimo, ma lei è inseguito dai servizi segreti già? Sono già le sue calcagna? Cioè, è in pericolo, è in pericolo di vita? Io mi guardo sempre alle spalle, ma non vedo nessuno con gli occhiali scuri, il cappello e il bavero alzato. Si saranno modernizzati. Allora, per chi non lo sapesse, Michele Scandroglio, quando è stato l'altro giorno, il primo di dicembre, a Scandroglio e ad altre persone, l'ex ministro Scaiola ha... proferito le seguenti frasi: ho guidato i servizi, so i vostri segreti, ho riassunto naturalmente, no? Ecco. Ma insomma il succo è questo, che è una cosa molto molto grave, no? Diciamo la verità, non è stata trattata secondo me dai media a sufficienza, giusto Parenzo, questa cosa qui? C'è un ex ministro degli interni, un ex ministro degli interni che senza smentire poi questa è la cosa gravissima, anzi confermando tutto, perché poi, evidentemente tirato, però voglio dire, ho capito, so i vostri segreti. Lei che segreti ha, Scandroglio? Appunto, io domani presenterò un'interpellanza al Presidente del Consiglio, che è responsabile ultimo dei servizi segreti, perché se ci sono dei segreti su me vorrei saperli anch'io, insomma. Non, vabbè, adesso al di là delle... sapere solo Scaiola, certo, ecco. Al di là delle tecniche parlamentari, lei presenterà un'interpellanza per capire se ci sono, per capire cosa, scusi, contro Scaiola questa interpellanza? Ma no, per capire se è vero che i servizi segreti si prestano a fare i delatori per conto terzi e a prendere notizie su di me o su di altri, magari anche su di lei, cosa che farebbe incazzare, penso, molto chiunque. Ma non c'è dubbio. E appunto, e quindi cioè, voglio esistono dei punto files di Scaiola, non sono solo millanterie tese ad intimidire chi non si intimidisce affatto, oppure se sono cose vere, e se sono cose vere non c'è niente da ridere, ma c'è da preoccuparsi molto. Scusi un attimo Scandroglio, cioè Scaiola le ha fatto capire che esistono dei files, adesso io sto scherzando naturalmente perché mi sembra una follia, però dei files... È bravo, infatti non so se ridere o se... cioè lei che ha da nascondere nella vita, che ha da nascondere? Ha avuto amanti? Oddio, no, ultimamente no. Sicuro, diciamo. Sicuro. Qualcosa, come ultima, vabbè, qualcosa da perdonare ce l'ho anch'io. Qualcosa da perdonare ce l'ho a lei, vabbè, sono, lei è sposata attualmente? Certo. Certo, vabbè, però qualcosa quindi, da perdonare ce l'ho, cioè, però sì, non credo che sia quella la cosa. Sua moglie sarà a conoscenza di qualche sua scappatella, immagino. Temo di sì. Per cui da quel punto di vista, anche se rivelassero qualcosa, non credo che... No. Però sarebbe grave lo stesso. Ma c'è anche, no, assolutamente. Ma c'ha anche detto che finiremo tutti all'inferno. Io la combatto da ore. Beh, ti annuncio, caro Parenzo, tu che sei in viaggio sul torpedone, sì. Poi abbi pazienza, tu sei a favore della TAV, della modernità, basta con sto torpedone, su, cioè attrezzati. Beh, assolutamente. Attrezzati, torpedone trattasi di cose del passato, non è che uno prende il torpedone della Senegal. No, può essere anche utile, suggestivo e romantico. Vabbè, attraversare l'Italia con il torpedone, però ti segnalo che il professore Zichichi, che da noi ha pronunciato le parole che conoscete ormai, cioè sarei felice se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, è entrato nel mirino di Beppe Grillo, che parla di cervello nucleare di Zichichi. È entrato nel mirino di Grillo, non per questo, però Zichichi ha avuto il coraggio nostra. Per colpa nostra, beh, lasciamo perdere, noi facciamo il nostro mestiere. Il punto è un altro: il professore Zichichi ha avuto il coraggio di ripetere le stesse cose che dice da anni, cioè di essere favorevole al nucleare, nonostante sia entrato in una giunta guidata dal Partito Democratico. Bravissimo, infatti. Se n'è fottuto, se n'è fottuto del politicamente corretto e ha detto quello che pensa. Poi si è nascosta per me. Diciamolo questo, diciamolo forte. Hai ragione. Non mi dare troppa ragione, però siamo di fronte appunto a un caso clamoroso che è stato trascurato dai media. C'è un ex ministro degli interni come il signor Scaiola, Claudio Scaiola, che ha minacciato alcuni suoi deputati. Non ci interessa nemmeno di capire le ragioni poi a noi, no? In realtà, perché possono esserci dei problemi tra di loro, di rapporti, litigi, tutti politici o non politici, ci interessa relativamente. La cosa centrale, la cosa importante, è che li ha minacciati uno per uno dicendo: io so delle cose su di voi perché ho fatto il ministro degli interni, guidavo i servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Scusi Scandroglio, ma perché lei non l'ha denunciato, non lo denuncia? E infatti stavo dicendo che... Ma al di là della questione parlamentare, ma proprio la denuncia per minaccia, che ne so, per... Guardi, io ho proprio in queste ore chiesto al mio avvocato di farmi capire di più se ci sono gli estremi o meno. Scajola avrebbe detto, ma io queste cose le ho dette a porte chiuse. Come è noto, a porte chiuse non erano, perché c'era un giornalista del Secolo, sì, tale Giovanni Mari, sì, che era lì seduto in prima fila, no, prima fila, in terza o quarta fila, e sì, quale ho detto, per piacere esci, che non è il caso, tanto senti tutto perché la porta è a vetri, quindi non c'è pericolo, quindi queste cose le ha dette ufficialmente davanti a tutti, non certo, si è rivolto solo a me, ma si è rivolto a tutti. E dunque lei potrebbe querelarlo? Io penso proprio che questi estremi ricorrano. Per quale reato? Per quale reato? Diffamazione? Minacce. Un reato, e se quelle possono essere configurate come minacce, io sicuramente lo denuncerò. Comunque non è che l'ha chiamata poi per chiedere scusa, no? Assolutamente. No, non è il tipo, devo dire la verità. Non lo farà, non lo farà. Insomma, è lo stesso del rompicoglioni, ricordiamocelo. Però lei era uno scaglioliano, però, Scandroglia, era considerato uno molto vicino. Fino a un certo punto ho creduto che questo carattere così duro, questo modo un po' arcigno di muoversi e questo piglio potesse essere utile. Poi ho scoperto che, ahimè, nascondeva solo poca cosa, e quindi dalla casa del Colosseo in poi, devo dire, mi sono pian piano Ma non è che ritiene, perché io adesso è inutile che le spieghiamo agli ascoltatori, però insomma l'idea è quella di pensare che voi siete suoi, come dire, no? Roba sua. Esatto, quando dicevo caratteraccio volevo dire un pensiero padronale, un pensiero che... Cioè a chi lo possiamo paragonare? Non saprei dirle, perché c'è taluno nella storia che ha avuto queste pulsioni, ma ha fatto qualcosa di buono, ecco, cioè, perlomeno non ha fatto... parliamo dei grandi romani che venivano, come dire, chiamati dal Senato a condurre nei momenti di difficoltà, avevano pieni poteri, però poi insomma alla fine dimostravano il loro valore cadendo sul campo. Qui invece ci troviamo di fronte a qualcuno che pretende di avere questi, come dire, grandi meriti, e in realtà poi... Ma cosa ha detto che non è uscito fuori? Cosa ha detto poi che non è uscito fuori sui giornali? No, qualcos'altro, non è uscito tutto? Per il PDL e per lui sui giornali è uscito tutto e di più, perché erano lì ad ascoltare, per cui non c'è nessun segreto. Dunque questa qua è una sorta di avvertimento, lo possiamo definire così, mi ha fatto un avvertimento mafioso. E il mio collega Minasso l'ha proprio definito così, Dunque, anche per lei è una sorta di... cioè si è comportato come... Ma guardi, io spero molto che questa cosa non finisca qui, come spesso in Italia le cose finiscono qui. Avete voi rilevato che purtroppo ha una bassa attenzione, forse le primarie hanno oscurato, il PD ben fatte peraltro, hanno oscurato questa notizia in una circostanza di minore... occupazione dello spazio, questa sarebbe stata la prima pagina, ma vedo che non mollano, perché oggi su tutti i giornali insomma... scusi un attimo, ma altri deputati, i suoi colleghi, non le hanno mandato qualche messaggio? Sì, ce n'è uno che mi ha detto addirittura che bisognerebbe esorcizzarlo, cioè ci vorrebbe l'esorcista. Fieggio dell'esorcista, dicevo. Vabbè, sarà un antiscaglioliano questo qua. E comunque, vuol dire, sono anche tanti che mi hanno chiamato per dirmi che insomma siamo di fronte a una barbarie che non è ammissibile, e quindi insomma gli ho detto a tutti che io... Ma lei è sicuro che non ha, al di là della questione delle donne, cioè, sicuro che non abbia niente da farsi perdonare? Le ha detto che è dovuto scappare dalle sue terre per Tangentopoli? Certo, perché io ho avuto una vicenda giudiziaria a Milano dalla quale sono stato assolto. In quel momento mi sono dimesso da tutto, e da tutto vuol dire anche dalle cariche istituzionali. Ho atteso con pazienza che... E dunque a cosa si riferiva riguardo a so tutto di voi? Cioè di lei cosa può sapere? Io credo che siano millanterie, ed è per questo che interpelleremo il Presidente del Consiglio per vedere se è una millanteria o meno, perché poi... Va bene, Scandroglio, magari si ritroverà in Parlamento nello stesso partito con Scajola, mi sembra difficile. Non grazie. Credo, questa è una cosa che devo escludere a priori. Nel partito in cui ci sarà Scajola io non ci sarò. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città. Sia detto, caro Parenzo, con il massimo rispetto. con il massimo autorità. Rispetto per le autorità civili, politiche, militari e religiose, in questo caso e religiose. Allora lo voglio dire chiaro e tondo a Monsignor Fisichella. Monsignor Rino. Pur non essendo io, per carità, un mangiapreti, pur non essendo io anticlericale, come invece è Parenzo, pur non essendo io pregiudizialmente contro le posizioni della Chiesa, tutt'altro. Beh, neanch'io. Ma su questo si può discutere. Comunque, pregiudizialmente, il signor Monsignor Fisichella. Che ha detto Monsi? Presentando l'altro giorno il libro di Ferdinando Adornato. Su questo si potrebbe ampiamente discutere. Il signor Rino Fisichella, anzi Monsignor, perché dico sempre signor? Monsignor Rino Fisichella ha detto la sua su una foto. La foto è quella di Bersani circondato dai suoi ragazzi, quelli che lo hanno accompagnato durante la campagna elettorale, no? La Moretti, Speranza e non mi ricordo l'altro come si chiama, ma insomma non è importante. Roberto Speranza, Tommaso Giuntella e Alessandra Moretti. C'era Bersani in mezzo e i tre che agitavano un pugno chiuso. Uno il pugno destro, gli altri due il pugno sinistro. Allora, commento un po' chi se ne frega, no? Del pugno chiuso, agitato, eccetera. Ma certo. Commento di Monsignor Fisichella. L'altra sera vicino a Bersani c'erano due ragazzi e una ragazza e salutavano a pugno chiuso. Mi domando, cosa c'è di nuovo in questo? Il pugno che fa paura a Fisichella. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Slitta in Senato la legge elettorale, rottura a un passo, il PDL cambia linea sul premio di maggioranza. Enigma Berlusconi, rinviato l'appuntamento da Vespa. Bersani, il PDL è allo sbando, non si capisce più cosa vuole. Non vedo l'ora di sfidare Berlusconi. Duopolio con Renzi, siamo un collettivo aperto e plurale. Grilli, lo spread cala perché l'Italia rispetta gli impegni, ma non si può allentare il rigore. Dall'export segnali positivi. Vigilanza bancaria europea, niente accordo. La crisi mette alle corde l'edilizia, ha perso oltre 500.000 di posti di lavoro, crollano gli investimenti. Consumi giù a Natale, le tredicesime non bastano. Ore di incubo per Sergio Zavoli, giornalista, presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, picchiato e derubato in casa, ha subito la roulette russa. La Turchia chiede alla NATO i missili Patriot alla frontiera siriana. La risposta sarà dura se la Siria usa le armi chimiche, Damasco però smentisce. E com'è cambiata la comunicazione politica dagli anni 70 ad oggi, tra elezioni e referendum? Quasi 500 spot visibili su una banca dati online. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Guarda che questo, Parenzo, è l'inno del Movimento 5 Stelle, quello che viene utilizzato per reclutare con le parlamentarie, le famose parlamentarie, che sono le candidature via web, i prossimi parlamentari, hai capito? Cioè anche Grillo ha fatto l'inno adesso. Beh, non è proprio un inno, però ognuno vale uno, questo è il titolo, dobbiamo ancora scoprire gli autori, ma magari ma sono persone... Mettere... Gli inni della Prima Repubblica che avevano dentro tutta quella carica straordinariamente ideologica, bianco fiore, bellissimo. Quello del ognuno vale uno, senti, ognuno vale uno. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrendono. È agghiacciante, forse è meglio quello di Scilipoti, eh. Mi azzardo a dire che è meglio Scilipoti, ve lo dico, cari ascoltatori della Zanzara, ve lo dico chiaro e tondo. Rispetto a questo inno, tra virgolette, o comunque la musica che accompagna le candidature del Movimento di Grillo, è meglio Scilipoti. Solo cuore, un'unica idea. Ma vuoi mettere? Dai, su. Un'Italia ancora tu, ancora tu, ancora mia. Ti annuncio, Parenzo, e lo annuncio a tutti coloro che ci stanno ascoltando sui torpedoni, sulle macchine, in cucina, mentre state con i vostri bambini. Mentre state con i vostri bambini, mentre state con le vostre fidanzate, mentre state con le vostre mogli, mentre state con le vostre amanti, mentre state con i vostri amici. Con le vostre amichette. Che l'autore dell'inno di Scilipoti è anche l'autore del nuovo inno presentato l'altro giorno a Milano, di un grande movimento, quello di Magdi Cristiano Allam. Va bene. Un solo cuore. Che si candida alla presidenza del Consiglio. Hai capito? Magdi, Magdi. Alla presidenza del Consiglio. La cosa pazzesca, dai. Vabbè. Allora, a proposito delle candidature dei 5 Stelle, ne abbiamo pescate alcune dal web, che sono straordinarie, straordinarie. Senti questo, che si chiama Biscardella. Il mio stile di vita è biocompatibile. No, perché? Perché biocompatibile? Perché? Sono Nico Biscardella, candidato alle primarie del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Piemonte 2. Ho uno stile di vita ispirato alla biosostenibilità e al rispetto dei diritti conquistati dai cittadini italiani ed oggi messo in discussione da una politica corrotta e priva di credibilità. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Un altro che si chiama Spizzico, almeno si presenta così, dice siamo degli ego separati. Questa vecchia percezione che abbiamo di noi, cioè di essere degli ego separati. E quindi succede, è successo adesso che la tecnologia sta andando a una velocità molto elevata. Mandatemene un altro, tanto uguale, diluvio universale, ce ne sono di eccezionali, Parenzo. I candidati alle parlamentarie, poi magari ce ne saranno anche di geni, oppure questi qua che state ascoltando sono dei geni incompresi. Che dire, dovrei restringere in pochi secondi la mia storia. Diciamo innanzitutto dove ci troviamo. Qua siamo nei Campi Flegrei, Pozzuoli, Bacoli, una terra bellissima, la culla della civiltà. Figuratevi che sappiamo che qui a Cuma, a pochi chilometri da qui, per la prima volta arrivò la scrittura, che poi presero gli Etruschi e i Romani. Se oggi Obama o il Papa possono parlare, grazie ai Greci, gli antichi Obei, che vennero qui e si stabilirono per la prima volta. Beh, questo l'ha presa alla lontana la candidatura, I Greci, il Papa, Obama, le parlamentarie. Vabbè, 800 24 00 24, Stefano da Firenze, buonasera. Buonasera, salve Cruciani, salve Parenzo, finalmente ce l'ho fatta. Dica, dica. Allora, stringendo, volevo fare una piccola provocazione. Insomma, visto che ha vinto Bersani, visto che si ricandiderà molto probabilmente Berlusconi, io tifo Berlusconi, perché alla fine, tanto tutti e due ci porteranno nel baratro, ma perlomeno con Silvio ci si diverte. Festine da paura, tutte, culi, tette, quindi sarà tutta una grande festa, tanto anche Bersani ci porta nel baratro, ma che tristezza. E quindi fondamentalmente forza Silvio, cioè come si fa a dire di no a Silvio? Beh, qual Stefano, io sono con lei, e se davvero fosse così ci aspettano mesi di grande, grande divertimento. Piero da Roma. Allora, io vado direttamente al dunque. Però gravissimo quello che ha fatto Scajola. Sì. Dico che però è un'intelligenza all'intelligenza del popolo italiano, anzi avrebbe messo un reato apposito, perché un individuo il quale sa tutto di tutti non sa chi gli ha pagato la casa. E anzi, poi? Anche perché probabilmente chi gliel'ha pagata sarà stato ben attento a non farglielo sapere, naturalmente. Beh, ma al di là di questo, della solita battuta sulla casa a sua insaputa, che cos'è che trova grave? Le frasi che ha detto agli le altri frasi. Deputati del PDL? No, non solo le frasi, le minacce. Ma, ma al di là della minaccia, al fatto che lui spi qualcuno, cioè quello che sta a monte e della minaccia e della frase che ha detto, il fatto stesso che ci sia una possibilità che lui l'abbia fatto, trovo gravissimo. Beh certo, Piero, grazie. No? Basilio da Torino, buonasera. No, persona. Basilio. Mi meraviglio che ancora nessuno abbia preso provvedimenti. Dica, stai zitto. Basilio. Sì, allora, buonasera Cruciani, salve. Senta, io sentivo la sua battuta lì sul professor Zichichi, eccetera. Le volevo precisare una cosa, io la seguo un po'. Sì, ma quale battuta? Io non ho fatto nessuna battuta. No, no, per carità, non dico battuta, però cioè, ha parlato del professor Zichichi, di quello che lui ha detto. Sì, allora. Lei trascura una cosa, questo, anche se la Costituzione dice che questa è la Repubblica basata sul lavoro, io non voglio essere un paese operaio, voglio essere un paese libero di fare anche roba scientifica, attività scientifica. Io faccio ma che parte c'entra? Di... Beh, c'entra, c'entra molto, perché questo paese qua è tutto in mano, tutto conquistato al 100% a voi letterati. Berlusconi cosa sta facendo, Parenzo? Che sta facendo Berlusconi? Sta pensando. Sta riflettendo, che non ha sta deciso. Pensando. Scenetta meravigliosa oggi alla Camera. Presiede la Bindi. Presiede la Bindi. A un certo punto, mentre parla, sì. Casini comincia a gridare dalle tribune: lei non è da rottamare, lei non è da rottamare. E lei, col pollice alzato in segno di assenso, in segno di vittoria quasi, grazie, tra noi ci si capisce. Splendida scena. Colleghi, per cortesia segnalatelo prima, Tra l'altro questo è un emendamento che non è neanche del vostro gruppo, quindi grazie presidente, grazie, ci capisce tra noi. Venuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comodo. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, la Zanzara di all'altro. Dimmi. Ti voglio dare una notizia, una sì. notizia. Sì, che notizia? Mi viene sempre delle mie notizie, perché sono sempre derise. Domenica, sì. quando Bersani è stato incoronato dal suo popolo segretario con questa vastissima maggioranza, Rosi Bindi, che era al mio fianco, piangeva. Beh, le notizie di Parenzo, cioè ci stai dicendo che Rosi Bindi piangeva. Beh, aveva delle lacrime. Aveva, beh, piangeva o non piangeva? Aveva le lacrime agli occhi, era emozionata. E allora io l'ho abbracciata anche a un certo punto. Io ho detto: Rosi, perché piangi? E lei: perché abbiamo vinto. Allora, ti dico solo questo, ti dico solo questo. No, no, ti dico solo questo, perché ovviamente le tue cose non sono verificabili e saranno sicuramente false. No, che su Twitter, su Twitter, la numero uno in assoluto, che si chiama Lia Celi, scrive... l'ho visto. Su Zichichi, l'hai visto, l'hai visto. Zichichi, sogno una Sicilia piena di centrali. E fammelo dire bene. Sono come gli uomini di Scaiola. Sì, ma non mi interrompere. Fammele dire bene le cose. Zichichi, due punti. Sogno una Sicilia piena di centrali nucleari. È diventato leghista. Bene così, Luigi da Vicenza. Non si sente niente. Mauro da Brescia. Mauro da Brescia c'è o non c'è? Mauro da Brescia non c'è. Salvatore da Agrigento. Io qualche volta vorrei sfasciare i telefoni a picconate. Salvatore da Agrigento. Pronto? Sì, dica. Pronto? Dica. Allora, non si sente nulla. Basilio da Torino. Ragazzi, cercate di mettermi telefonate decenti. Basilio da Torino, via tutti. Basilio da Torino. Sì, da Taranto. Vada, da Taranto, benissimo. Allora, chi scrive Torino? Chi diavolo scrive Torino invece di Taranto? Da Taranto, va bene. Allora, però guarda, bisogna arrabbiarsi per una cosa, mi scusi Basilio, bisogna arrabbiarsi. Indignatevi insieme a me. Ho pronunciato la parola indignatevi, in realtà non la dovrei pronunciare. Incazzatevi insieme a me, mettetemi una musica sotto, qualsiasi musica. Allora, il presidente uscente, Parenzo, il presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana, detta anche Ars, che andrebbe Arsa viva in realtà, Arsa, bruciata, bruciata. Il presidente uscente dell'Ars, assemblea che sta per assemblea, ripeto, regionale siciliana, si chiama Francesco Cascio. Francesco Cascio. E vabbè, fin qui ci siamo, no? È tutto normale, no? Francesco Cascio è il presidente uscente, non il presidente della Sicilia, è il presidente uscente dell'Assemblea regionale, una sorta di presidente della Camera o di presidente del Senato, insomma, no? Bene. Uno pensa, esci da un incarico, beh, insomma, ti rimane qualcosa, magari una stanza, no? Sì, è rimasto a fare il deputato regionale, ma in ogni caso ti rimane una stanza, un piccolo ufficio. Se rimani consigliere regionale, ti rimane un piccolo ufficio. E invece no. Stanza, auto blu, autista, assistenti, sono tutti benefiti di cui godrà Francesco Cascio in qualità di presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana, detta anche ARS, in quanto ex. Giuseppe da Roma, eccoci qui, vediamo se riusciamo a collegarci. Anzi, buonasera. No, c'era Basilio, scusi Giuseppe, Basilio da Torino. Allora Cruciani, tutto quello che ha detto si ricollega a quello che voglio dire io. In questo paese dobbiamo mettere delle basi. La base è una. Qual è? Noi siamo già un paese che ha un basso numero di laureati per cento. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire anche questo. Però c'è una cosa, che è un numero che farebbe paura a chiunque. Non mi faccia annoiare, vai. No, io non la faccio annoiare. In questo numero qua di bassi laureati, 70% laureati in materie umanistiche. Visto che io sono uno scienziato, voglio stare dalla parte di chi? Che vuol dire? Vuol dire tanto, perché questo, cioè, potere agli scienziati, dice lei. No, potere. E allora che vuol dire? Potere. Spazio. Vabbè, spazio, potere, uguale, su, Basilio, dai, forza. È uguale, spazio, potere, il potere mica significa oppressione, significa esercizio del potere, una cosa democratica. Visto che noi siamo in un paese industriale, o non siamo, se siamo un paese industriale, dobbiamo mettere una base. Che me ne faccio io di Bersani, ministro delle attività produttive? Cosa stavo? Lui è laureato, se non mi sbaglio, in letteratura, roba del genere. Io mi sono scocciato di essere circondato da tutta sta gente qua, che non è adatta a questo paese. Ho capito, Basilio, grazie. Giuseppe da Roma, grazie, ho capito tutto. Giuseppe da Roma, abbiamo capito tutto. Posso parlare? Buonasera Cruciani e buonasera al prode Parenzo. Stia calmo, dica. Siete, io sono un cittadino a 5 stelle, almeno. Vabbè, questo lo dice lei, a 5 stelle. Pronto? Posso parlare? In che senso a 5 stelle, scusi? In senso a 5 stelle che andare al seggio elettorale, chiude gli occhi e fa la crocetta al buio, non c'è so. L'ultimo, ma questo, me. Ma scusi, ma chi lo fa questo? Non il migliore. Perché lei attribuisce ai cittadini italiani una sorta di appecoronamento, cioè vanno al seggio? No, io parlo per me, non sto parlando per gli italiani facessero quello che vogliono. Io, nel mio, che ho sempre votato Berlusconi, le ultime due legislature non l'ho più votato perché ho visto quello che stava succedendo. Oggi andare a votare Grillo per me non significa votare il massimo, perché secondo me, che mi documento solo su internet, alle spalle dei Monti c'è la trilaterale, alle spalle di questi famigerati alla spalla dei Monti c'è Bilderberg alle spalle di questi famigerati Casaleggio c'è la trilaterale, sono comunque lotte di potere. Che succederà? Che per 40 anni ci avremo un miracolo economico, però no, sempre potere sarà. Non so se ho reso l'idea, Cruciani. Ma non so se ha reso l'idea, Parenzo, tu che dici? Succederà una cosa molto semplice, che nel giro di pochi minuti una macchina molto colorata arriverà, la prenderà, le farà delle analisi e la terrà, credo, in osservazione per almeno 4 giorni. Spettacoloso. Beh, insomma, lei ha detto... Io ho detto la mia, non ho detto che è Vangelo quello che ho detto io. Ho detto secondo io credo le mie ricerche... Come lettore generale. Vabbè, arrivederci. Mauro da Brescia, buonasera. Ciao. Dica. Sono ritornati i mostri. E chi sarebbero i mostri? D'Alema e tutta quella gente là. Ma chi? Ma quali mostri? Ma di che parla? Quali sarebbero i mostri? I mostri, i comunisti sono ritornati. Ma i comunisti? Quelli che si mangiano i bambini, Cruciani. Ma questo lo dice Monsignor Fisichella quando parla di pugni chiusi. Siamo giovinati. Ah, ma lei è ironico. Lei è ironico. Più che ironico è la verità. Siamo ritornati appunto punti a capo. Vabbè, insomma, lei ci crede davvero? Ci crede davvero che sono tornati comunisti col pugno chiuso, come dice Monsignor Fisichella? Sì. Parenzo, chiami tu qualcuno o no? Il discorso adesso qual è? Sono impegnati con l'altro. Ah, stanno portando via l'altro. No, un'altra cosa. Sì, mi dica. Io voglio fare un appello di solito in quei posti lì quello succede, si fanno tanti appelli, in quei posti lì, come dire, dove sono i camici bianchi, no? C'è un sacco di gente che fa appello. Renzi, candida, rifatti un partito da solo, che quelli di destra votiamo tutti te. Benissimo. Vinci tu le elezioni. Ma questo ti qua prego. Sì, ti prego, addirittura. Ti prego, fai un partito, siamo tutti pronti. Ma facciamo, marciamo su Roma. Ci sono i comunisti, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa qua, Quando la Ma che umanità! Che umanità che esce fuori qui dalla zanzara, caro Parenzo! Che umanità! Quanti problemi di alcol! Quanti problemi di alcol! E adesso lui ha detto una frase: ci sono i comunisti, Renzi, per favore salvaci dai comunisti. Adesso ecco, sarà un modo rozzo per esprimere però un concetto molto semplice. Adesso magari è uscito un attimo, no, gli hanno fatto una punturina e si era ripreso. Ha detto una cosa che molte persone di centrodestra pensano, diciamo la verità. Ma quali comunisti? Ma, lasciamo perdere, no, ma non i comunisti, cioè molte persone di centrodestra pensano, ci possiamo salvare da Bersani e dai suoi, da Vendola, eccetera, eccetera, solamente con Renzi. Se Renzi, solo che di che parliamo? Cioè, Renzi nel PD è... Ma qui, caro Parenzo, ti ho invitato un personaggio che da tempo volevo invitare, ma volevo trovare il momento giusto per farlo. Hai capito? Oh, molto bene. Beh, finalmente hai voluto dare una sterzata a questa trasmissione, immagino. Ma no, una sterzata, che c'entra? È un personaggio che ha quasi la nostra età, cioè la mia età. Classe 59, quindi, un po' più anziano in realtà, classe 59. 50 anni, insomma. Fiorentino, no, più di 50, di che stai parlando? Ma dico, ma sei rincoglionito, ma sai fare i conti o no? No, tu hai detto che ha quasi l'età tua e tu ne hai 46. Vabbè, sei sul torpedone, non sei lucido. Ma hai detto che ha più è il terzo, è il terzo, è il terzo dell'alleanza. In teoria quello che conta di meno nell'alleanza, in teoria. Ah beh, un segretario di partito allora. Un segretario di partito. Sai l'alleanza da chi è formata? L'alleanza tra PD, ma come no, Vendola e... Vendola e socialisti, ovvio. Riccardo Nencini è con noi, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, lei? Bene, me la cavo. Beh sarà contento. Dice di avere portato... Sì. Innanzitutto voglio sapere, si è arrabbiato con Monsignor Fisichella? Perché Monsignor Fisichella, lei che è proprio un rappresentante della cultura laica socialista, insomma, Monsignor Fisichella che seriamente dice: beh, insomma, non è cambiato niente, avete visto quei ragazzi col pugno chiuso? Che vuole dire lei, Nencini, a Monsignor Rino Fisichella? C'è stato un chiarimento con Rino Fisichella che risale ormai ad alcuni anni fa, la morte di Oriana Fallaci. Cioè? E lui ha dovuto condividere la mia opinione. Oriana Fallaci, quando morì, non si è convertita. Da allora viaggiamo d'amore e d'accordo. Ma quando sostiene tesi come queste, ci litigo volentieri. Allora ci litighi con il signor Rino Fisichella quando dice non è cambiato niente, cioè non vedo niente di nuovo con quei ragazzi col pugno chiuso. Ma lei l'ha mai fatto il pugno chiuso, Nencini? Sì, assolutamente sì. Dunque, l'ultima volta uscendo dal cinema dove proiettavano il film Red. Dunque, qualche anno fa, in realtà. Qualche anno fa. Ma perché lo fece, scusi? Beh, perché credevo profondamente. Uscì anche cantando l'Internazionale. Avevo 20 anni ed era una cosa che si poteva fare. A vent'anni. Cioè, il pugno chiuso è una bella cosa. Assolutamente sì. Anche oggi è un simbolo di libertà, dice lei. Beh, in alcuni paesi nel mondo è un simbolo di libertà. Sì. In Italia ha più significato simbolico e basta. Ma comunque non c'è niente di male. Non c'è niente di male a farlo adesso. No, vedo gesti molto peggiori. Vedo gesti molto peggiori che non si dovrebbero fare. Per esempio, la Chiesa fa gesti molto peggiori, secondo lei? Prego? La Chiesa, per esempio, fa gesti molto peggiori? No, la Chiesa dovrebbe pagare l'IMU sui servizi commerciali che offre. Quello sarebbe un gesto assolutamente buono che condividerei anch'io. Ecco, a proposito di IMU, fa un gesto peggiore. Che sono d'accordo anch'io sulla questione dell'IMU, assolutamente, perché evidentemente esistono delle zone grigie che oggi non sono che oggi non pagano. Però voglio dire, se ci dovesse essere un governo Bersani, lei premerà su questo, no? L'IMU sarà una delle prime cose da fare, l'IMU alla Chiesa. Sì, o no? Sì, è una di quelle priorità accanto ad altre questioni, ma insomma, il pagamento dell'IMU, sì. Se l'IMU dovesse esserci ancora, perché noi abbiamo avanzato una proposta che prevede la cancellazione dell'IMU sulla prima e unica casa di proprietà. Sì, comunque, insomma, lei dice l'IMU alla Chiesa è una cosa buona, giusta, nostro dovere. Sì, servizi commerciali. Sì, faccio un po' il blasfemo, eh. IMU alla Chiesa, cosa buona e giusta, così si può dire, Nencini? Si può dire. O è blasfemo? No. No, non è blasfemo. Sa, nostro dovere, non fonte di... accusato di blasfemia. No, per carità. Allora, no, devi sapere, Parenzo... Devi sapere, Parenzo, che Nencini si è piccato, non so attraverso quali calcoli, ma evidentemente sono calcoli realistici, sì. Di aver portato alla vittoria di Bersani ben 110.000 voti. Cioè, lo ha detto proprio esplicitamente. Cioè, ci sono 110.000 voti socialisti, perché lui fa un calcolo... Sì, suoi, insomma, non è che di proprietà sua. Chi è che è caduto stavolta? Parenzo o Nencini? Nencini. Vabbè, adesso lo recuperiamo, eh. Alle 19:49. Sì, perché lui fa un calcolo, 700.000, glielo dico dopo, Lorenzo da Roma. è caduto Nencinino, ma non è caduto dalla sedia, è caduto perché stava in macchina in collegamento non so da dove, ovviamente. Lorenzo, pronto? Da Roma, si dica. Senta, l'organizzazione di Grillo sta dimostrando un fiuto politico eccezionale, non ha attaccato i magistrati e si sta allontanando piano piano da quell'altro ladrone di Di Pietro, mi sembra o no? Beh, lei ha utilizzato, cioè, mi spieghi, ha dato del ladrone a chi, signor Lorenzo? Diciamo Narraffone, va. Narraffone chi sarebbe? Di Pietro. Di Pietro. Da quando era magistrato, adesso non ha raffato i soldi del partito e tutto quanto. Beh, adesso ha raffato i soldi del partito, lei utilizza questa espressione così brutale, insomma, ci sono delle inchieste in corso, delle cose... Sì, sì. Comunque ha arraffato i soldi del partito, dunque Grillo mostra fiuto perché si distanzia da Di Pietro, questa roba. Ma vecchia, non è solo Grillo, è tutta l'organizzazione che c'è dietro Grillo. Tutta l'organizzazione che c'è mica dietro. Mica penserete che Grillo sia... Grillo è un grande capocomico, io ho i miei figli che impazziscono per Grillo, per questo lo stanno utilizzando. Ma tu lo sai, Parenzo, a me sfugge una cosa... Ti sembra normale? Tanto Nencini l'abbiamo recuperato, sì, è con noi. Eccolo. Eccoci qui. Eccolo. Allora, vi sembra normale che non esistono immagini di Casaleggio recenti? Cioè, ci saranno frotte di televisioni che vogliono inquadrare il viso di Casaleggio oggi, no? Beh, cioè, non mi sembra di avere... No, ma abiterà da qualche parte sto Casaleggio. L'altro giorno Ferrara, durante il dibattito post primarie, ha detto: beh, mandate in onda, Mentana, te lo ricordi, no? Mandate in onda Casaleggio, altro che Grillo, così il Movimento 5 Stelle perde voti. Sì, d'accordo, però non esistono immagini, è possibile che le televisioni non si appostino? Basterebbe stare un giorno sotto l'ufficio di Casaleggio che è a Milano, dietro la scala. Ma no, evidentemente nessuno, non è possibile che nessuno ci abbia pensato a inquadrare nessuno Casaleggio. Ci ha pensato. Io adesso do questa cosa, guarda, io ti assicuro che nessuno ci ha pensato. Perché basta fare no, la non posta. È possibile, non ci credo. Ma te lo assicuro, basta stare un giorno. Scusami, secondo lei Casaleggio chi è, Nencini? Esiste Casaleggio? Beh, è come Diabolik. Cioè? E non c'è Ginko per ora che l'abbia preso. No, esiste, è in carne e ossa, immagino. Lo so, però non si vede mai, Beh, provate a cercarlo, voi siete molto bravi, fra l'altro. Sì, grazie, però noi, sai, con la radio è più complicato farlo vedere, insomma, diciamo la verità. Però passeggiando. Passeggiando, dicevo, una telecamerina, poi la mandiamo sul sito. Sì, però è curiosa questa cosa, cioè non si vede fisicamente, secondo me sta a casa di Grillo chiuso là, in una sorta di sottoscala, con la sua stanzetta, con le sue cose. Vabbè, ma torniamo a noi. Lei dice, con 700 comitati per Bersani ha dato 110.000 voti. Come fa sto calcolo, Nencini, scusi? Perché ci sono state le preiscrizioni prima di andare al voto, come era previsto dal regolamento, e negli uffici elettorali che sono stati aperti dal Partito Socialista Italiano, nelle 20 regioni italiane, abbiamo raccolto circa 90-95 mila iscrizioni. Diciamo che hanno votato qualche migliaio di persone in più, quindi per quello lì è scientificamente probabile. È probabile. E quanti deputati valgono questi 110.000 voti? Non ne ho mai parlato. Ma come no? Ma proprio mai, no? È l'accusa che fanno in casa mia. E cioè? Mi dicono che sono troppo generoso. Cioè, generoso è a casa sua, nel senso preferisco fare legale anziché riceverli. In casa mia, nel mio partito. Nel suo partito, pensavo a casa sua con la sua famiglia, no? Per carità. Nel mio partito. Vabbè, ma lei si candida su, cioè, adesso non c'è dubbio. Penso di sì. Penso stiamo di aspettando sì. di capire che legge elettorale. Vabbè, quello sa, dipende e molto poi da Berlusconi. Capiremo come. Dipende molto da Berlusconi. Sono d'accordo con lei. Scusi un attimo, Nencini, però mi dica la verità. Lei, che ci sia un simbolo dei socialisti, mi pare difficile. Lei si candiderà. No, non è vero. Con questa legge ci sarà un simbolo. Ah, con il Porcellum ci sarà un simbolo dei sociali. Ah, beh, sì, perché conviene, naturalmente, perché conviene avere un simbolo. Perché è giusto che ci sia. Invece con un'altra legge voi sarete nelle liste del Partito Democratico. No, penso che non ci sarà una lista del Partito Democratico. Vedo che già ieri la direzione di SEL si è riunita per stabilire che potrebbe esserci al Senato una lista comune. E in quel caso ci sarà una lista con un simbolo nuovo, PD, socialisti e il Partito di Vendola. Mi parrebbe per il Partito Democratico un suicidio. Comunque, insomma, poi vedremo. Questo qua lo vedremo. No, sono più ottimista. Senta una cosa. Tu sapevi, Parenzo, sicuramente non lo sai, che Nencini è lo zio, era un famosissimo ciclista che vinse il Tour e il Giro d'Italia. Non lo sai, no? Naturalmente. Che lo zio? Ma non sai nulla, mamma mia. Ma io, Nencini, io come devo fare con sto Parenzo? Me lo dica, lei che è un ascoltatore della Zanzara. Allora, mi dica cosa devo fare. È un periodo in cui non si informa questo ragazzo. Che devo fare io? Ma non ti sento, ho detto che lo zio, non ho capito. Ma se già pronuncio la parola zio e tu non lo sai, è inutile che vado avanti, no? Ma io non, lo non sai. Posso costruire sapere, ma perché devo interessarmi delle parentele dell'ottimo Nencini? Ma perché in questo caso? Perché in questo caso è una parentela importante, non è una parentela così, cioè ma tipo la tua o la zio? Mia, insomma. Lo zio era Gastone Nencini. Vabbè, se non lo sai, non lo sai, è inutile stare a. è inutile. Ma tu sapevi che esisteva anche, esistevano i socialisti? Sì, lo sai questo qua, il partito socialista di Nencini, certo. Lo sai, no? Ma Craxi, Bobo, è con lui o no, ad esempio? Ecco, Bobo Craxi è con lei, Nencini? Certo. Capito? Dunque, Craxi in teoria potrebbe entrare in un nuovo governo Bersani, in teoria. Se il Presidente del Consiglio lo sceglie, perché no? Lei lo farebbe il ministro? Ha già fatto il sottosegretario agli esteri, l'ha fatto molto no, bene. No, lei lo farebbe? Lei, Nencini, lo farebbe il ministro? Bobo Craxi? No, se lei, Nencini, farebbe il ministro. Beh, se mi chiamano, sì. Lo farebbe? L'ho già rifiutato una volta, alcuni anni fa. Però magari la seconda si accetta, Non sì, si fa dipende, la stessa. Dipende dalla delega, ad esempio, sulla quale potremmo discutere. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24 con Davide Parenzo sul torpedone Siena-Roma. Che punto sei, David? Beh, Roma, siamo a buon punto dopo Orvieto, orario previsto, atterraggio previsto verso le ore 21, l'autiere sta frustando i cavalli. Sempre sei persone a bordo? O meno? Sempre sei persone a bordo, una si è incazzata, si è girata poco fa. Ma chi se ne frega, ma cosa? Una signora che avvicinati, fammi parlare con questa signora. Vabbè, dopo. No, c'è tempo. Abbiamo con noi il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Riccardo Nencini, la terza gamba dell'alleanza. Ma che bruttissimo. Mica si sente più forte di Sell, Nencini. No, ma sondaggi. La terza gamba. Ma perché volgare? Non è volgare, la terza gamba. Adesso, per carità, cioè io ho grande rispetto, molte cose le condivido, tra l'altro, dei socialisti di Nencini, per cui figuriamoci. Ma io voglio capire da Nencini, ma visto che il PD non li vuol vedere, e candiderà lui e Emma Bonino alle prossime elezioni? Questo è interessante, cioè, li portate voi radicali dentro l'alleanza? Visto che il PD non li vuole camuffati. Io per avere Emma Bonino farei carte false. Però i radicali non godono più di, no, dei favori del Partito Democratico. Beh, la strada è ancora lunga, È lunga. Sì, è ancora lunga. Cioè alla fine la Bonino da qualche parte spunta lei fuori. Lei la vorrebbe. La Bonino ha fatto cose che hanno reso più civile e più libera l'Italia e hanno reso più libera l'Europa. Deve essere con noi nella coalizione, dice lei, Nencini. Sì, firmerei in bianco. D'altra parte. Più lei vivendola. No, non si elidono, sono complementari. Pensano proprio allo stesso modo, ecco, come dire, no? Scusi, ma lei Bersani come lo chiama, compagno? Pronto? Lei Bersani come lo chiama, compagno? Lo chiamo Pierluigi. Compagno non si usa più? In casa mia uso la parola compagno, riunioni, direttivi, compagni e compagne. Compagni e compagne, ma con Bersani no, compagno Bersani si può usare, no? Sì, si può usare in pubblico, ma privatamente, certo. Una certa confidenza. No, ciao Pierluigi, ciao Riccardo. No, certo. Scusi un attimo, però adesso sogniamo un po', perché poi non bisogna, sennò tocchi ferro. Ferro o altre cose, perché sa, poi alla fine una volta c'era la gioiosa macchina da guerra, adesso lo squadrone. Non vorrei che poi si andasse succedesse quello che deve succedere, non deve succedere. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, però sogniamo un po'. La squadra ideale di un presidente del Consiglio Bersani. Lasciamo perdere Nencini, ovviamente. Però insomma, chi vedrebbe bene, agli esteri? Agli esteri vedrei bene Emma Bonino. Agli esteri la Bonino, agli interni? Sì. Agli interni non metterei un prefetto, cioè utilizzerei categorie diverse per ruoli diversi. Non metterei un maestro alla pubblica istruzione, un geometra ai lavori pubblici. Bene, però facciamo un politico, diciamo una cosa politica. Giuliana Amato agli interni, però Giuliana Amato, insomma, adesso con quelli. Ancora Giuliano Amato. Vabbè, comunque Giuliano Amato agli interni. Capisco che è socialista, viene dalla sua stessa. No, penso che sia proprio una garanzia per questa Italia. Una garanzia. Alla, che ne so, facciamo all'ambiente. Nencini. All'ambiente. Lei assessore, dovrei pensarci. Lei assessore a che cosa di Toscana? Bilancio e riforme istituzionali. Lei dove si vedrebbe bene se dovesse essere ministro? Dovesse scegliere io? Sì, dovesse scegliere lei. Ma Europa, regioni, sono le cose che conosco meglio. Europa, regioni. E che ne so, facciamo, che c'è di importante, Parenzo? Interni, esteri? Economia, beh certo, economia. Beh, economia non prenderei più un bocconiano, perché l'esperienza Monti e dintorni buona, 6,5, ma con delle lacune che vedo ancora terribilmente aperte. Non un bocconiano, ma se dovesse scegliere un politico, chi vedrebbe? Un politico all'economia non lo metterei. Ah, avendo no, già un presidente del consiglio che è un politico a tutto tondo, metterei un economista esperto che avesse. No, si faccia venire un nome. Chi le viene in mente? Mi viene in mente. Beh, potrebbe essere anche Zingales. Zingales, addirittura. Sì. Tanto sì, per portare dentro qualcuno di Renzi, dice lei, no? Che è stato consulente di Renzi. Sì. Che è stato consulente di Renzi. Sì. Beh, figurati quanto si incazza la CGL, però, con Zingales, caro. Però lei è rivoluzionario, mi piace. Zingales all'economia. Parenzo, mi stai ascoltando o sei morto? No, è caduto. Vabbè, ma io questa sera che devo fare? Cade ogni tanto Nencini, cade Parenzo. A Orvieto? Ma che ne so, ma guardi, è terra sua, Nencini. No, Orvieto, dico, la Toscana. Ma mi dica una cosa, poi che altro ministero ci può essere? Importante. Cioè, Parenzo, che ministeri ci sono? Abbiamo fatto economia, interni, esteri, che c'è dopo? Istruzione, pubblica istruzione. Vabbè, però si fa difficile la cosa. Chi metterei alla pubblica istruzione? Sì, comunque tra i politici chi metterebbe a fare il ministro? Casini, dove lo metterebbe lei? Da nessuna parte. Casino metterei a presiedere il Senato. Ah, il Senato. Sì, ma scusi, perché è stato un ottimo presidente della Camera. Ma lei vuole morire democristiano con un'alleanza con Casini? Proprio lei? No. No, io non voglio morire democristiano, però so che c'è un mondo cattolico, liberal democratico, sì, che non la pensa lontano da me nel governo dell'Italia. E quindi lo vorrei alla stanga. Cioè l'alleanza con Casini la farebbe lei? Io lo sarei, sì. Lei la farebbe, farei. La sto proponendo da 3 anni e mezzo. No, vabbè, ma sa, noi ci aggiorniamo sempre. Però lei, scusi, Nencini, lei è favorevole al matrimonio omosessuale, giusto? Sì. Alle adozioni? Alle adozioni? Adozioni tra gay, sì o no? No, alle adozioni no, perché i bambini e le bambine devono avere una doppia sensibilità a Cannes. Uomini e donne hanno sensibilità diverse. Poi lei sicuramente è a favore dell'eutanasia. Sono a favore dell'eutanasia, diciamo. Sono a favore di tutta una serie di garanzie e di diritti da riconoscere, certo, all'unione di fatto. Sono favorevole al divorzio breve. Al divorzio breve, eutanasia, abbiamo detto, cioè comunque al diritto alla vecchia battaglia radicale. Sono favorevole alla libertà della scienza. Sì, ho capito, ma come si concilia tutto questo con Casini? Le alleanze sono fatte anche per trovare punti di equilibrio. Ma qui non è che le buone riforme nell'Italia post bellica sono state fatte tutte dalla sinistra riformista. Sì. Assieme a un pezzo del mondo cattolico. Beh, ma l'eutanasia, sa, si concilia difficilmente con chi è che è caduto stavolta? Chi è caduto? David, l'eutanasia. No, Nencini c'è ancora. L'eutanasia come si concilia con Casini? Ma l'eutanasia vorrei dirle che non è nemmeno una delle priorità. No, vabbè, d'accordo. Ne vedo altre di priorità. Però comunque lei è favorevole, per cui sa, è difficile conciliare questa roba. Certo che non è una priorità, figuriamoci. No, non è per niente una priorità. La metterei anzi agli ultimi posti tra le cose che dovrebbe fare qualsiasi governo sia figlio della vittoria elettorale. Parenzo, ci sei o non ci sei? E Renzi che gli facciamo fare? Renzi farà il sindaco di Firenze, lo ha detto lui. Sì. Tra l'altro questa cosa di cosa fare a Renzi, guardi, mi perdoni, se lei mi chiedesse, ma lei cosa vorrebbe fare? Sì. Le risponderei inequivocabilmente il sindaco di Firenze. Sì. E trovo che intanto scusi, devo dare una notizia, credo che la Corte Costituzionale abbia dato ragione al presidente Napolitano sul conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nella vicenda dei giudici di Palermo. Sì, ho sentito poco fa. Fare il sindaco di Firenze è un privilegio straordinario. Sì. Io continuo a pensare che sia meglio fare quella cosa che non fare il ministro. Quindi cosa altro dovrebbe fare Matteo? Faccio il sindaco, lo farà bene, Firenze ha bisogno di avere un sindaco brillante, attivo, protagonista, e riuscirà a portare bene a conclusione questo suo mandato amministrativo. E Vendola cosa può fare? Anche lui ministro o no? Vendola ha già acquisito quasi 10 anni di esperienza amministrativa e di governo in una regione importante come la Puglia. Che ministro può fare? L'ambiente? Vendola potrebbe fare il commercio estero. Addirittura il commercio estero? Sì. Ma non è meglio l'ambiente, scusi? No, commercio estero, vabbè. Se io facessi il presidente del Consiglio mi Ministeria del Commercio Estero. Al Commercio Estero. Sì. Parenzo. E verso sera arrivò la notizia che nel conflitto di attribuzione, insomma nella guerra, chiamiamola così, tra i magistrati di Palermo e il presidente della Repubblica Napolitano, la Consulta, ma secondo me non è una sorpresa, vero Parenzo? Sì, la Consulta sì. Dà ragione al presidente della Repubblica, le intercettazioni di Napolitano vanno distrutte. Cioè, insomma, Napolitano, ecco, vedrai domani, vedo già l'articolo di Marco Travaglio. Vabbè, che aveva già preannunciato questa decisione. E quindi Nencini, però volevo chiedere, c'è ancora il signor Nencini? Come no, certo. Eccolo. Ecco, voglio chiedere a Nencini, l'ultima volta che si è fatto una bella cannetta, però attento, non di hashish, di marijuana, quella purissima, marijuana. Mai. Non è possibile. Anche se è a favore della legalizzazione delle droghe leggere, signor Nencini, mi sembra. No. No, nemmeno quello. No. Vabbè, pensavo di averla, siccome ogni tanto quei radicali che sono favorevoli alle droghe leggere, però non è che uno deve condividere per forza tutto, cioè, no, assolutamente. Assolutamente no. Scusate, ci siamo dimenticati della giustizia, mi Nencini, però. Mi dispiace un po', mi dispiace. Perché ti dispiace? Non è uno, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia, per esempio. Infatti si vede, guarda come stai. Ma che come sto? Sto benissimo, sto alla grande. Guarda come sei ridotto. Ma quanto mai? Sto alla grandissima. Scusi Nencini, ma ci siamo dimenticati della giustizia. Chi metterebbe la giustizia? Alla giustizia metterei un grande organizzatore, pronto a riformarla dalle fondamenta. Cioè chi? Beh, uno alla Giuliano Vassalli. Beh, ho capito, uno alla Giuliano Vassalli, grande, però... Che è stato un grande avvocato e un grande docente universitario. Nonché socialista, certo. Sceglierei quella tipologia lì. Quella tipologia, però un nome non la viene in mente adesso. Guido Alpa. E invece ci siamo dimenticati. Sì, come no? Ci siamo dimenticati un'altra cosa. Che cos'era l'altro ministero importante? Giustizia, l'abbiamo detto. E c'è la difesa, come no? La difesa, no generali, alla difesa, mi sembra. La difesa, stesso criterio, non utilizzerei un generale, un ammiraglio, sì, e certo. Altro. Sì. Ecco, la difesa potrebbe essere data a un uomo politico. A una donna, Anna Finocchiaro. Anna Finocchiaro alla difesa. Senta, io però le voglio fare una domanda cruciale, ma Craxi, no? Craxi. Oggi Bersani credo che fosse in Libia, no? Ma non poteva fare, non sarebbe stato il caso di fare, no? Sarebbe stato un grande gesto, una deviazioncina verso Hammamet. Da parte di Bersani? Già Bersani è venuto a Stella a ricordare la grande storia del socialismo italiano e Sandro Pertini, che è stato Presidente della Repubblica, e tante altre cose. Sì. È il riconoscimento di una storia la cosa importante. Poi vengono i personaggi che hanno fatto quella storia. Beh, anche gli uomini, però. È il riconoscimento di quella storia, che è stata la buona storia del Novecento italiano. Ma Craxi sarebbe stato contento della vittoria di Bersani? Adesso, per carità, cioè, non è che... Non ho dubbio. Sì. Non ho dubbio, Craxi quando è stato in vita, sì, sempre a chi aveva frequentazioni oppure sì, insomma, quando aveva modo anche di parlare, sì, per telefono, visto che si trovava lontano dall'Italia, a me non ha mai detto, e ad altri che parlavano con lui non ha mai detto, di sostenere altri partiti che non fossero partiti del centro-sinistra. Ah, per cui oggi sarebbe stato contento di questa alleanza dei socialisti con Bersani e comunque della vittoria di Bersani. Beh, a Roma nel 93 lui non sostenne Fini. Sì. Ma disse di sostenere Rutelli. Scusi un attimo, ma che, ci sono somiglianze al di là della pelata, naturalmente, tra Craxi e Bersani? Beh, Craxi era più alto. Vabbè, la pelata più o meno è la stessa. Craxi era più robusto. Sì. Mi pare che si fermino qui. No, ma politiche dico. Ma chi era più riformista? Questa è una bella prova per Bersani. Mm. Bersani si sta avvicinando moltissimo ai canoni del socialismo democratico europeo, farà una cosa del 14-15 a Roma. Cioè non è ancora a livello di Craxi da questo punto di vista, non è ancora a livello del riformismo di Craxi. Craxi ha avuto più possibilità di esprimerlo, sì, ha governato per 4 anni, 83-87, Bersani lo farà dal prossimo anno, spero. Ecco, ma perché non è andato adesso ad Hammamet? Cioè dovrebbe andare ad Hammamet a fare una visita alla... la Libia, non è la Tunisia. Lo so, ma dovrebbe andare secondo lei? Tempo al tempo. Io lo consiglio di andare? La cosa più importante l'ha già fatta, cioè? E dovrà continuare a farla, ricordando che le società contemporanee si governano con un altissimo tasso di riformismo. Sì. Riformismo significa adeguare costantemente gli strumenti di governo alla realtà. Cioè, ma è un modello, deve essere un modello per Bersani, Craxi? Deve essere un modello il socialismo riformista. Anche Craxi, dunque. La cosa fondamentale. Quindi Craxi, Craxi ha fatto delle buone cose e delle cose meno buone. Le cose buone si possono prendere ad esempio, le cose meno buone non vanno prese ad esempio. Oh, vabbè, d'accordo, questo è chiaro. Qualcuno addirittura attribuiva un modo di essere di Craxi a Renzi durante la campagna elettorale, eresia per lei naturalmente, immagino, cioè Gotor, Scalfari addirittura, no? Attribuivano a Renzi una certa somiglianza politica con Craxi, vedevano Renzi come un nuovo Craxi. Per lei è un'eresia pazzesca. Ma Craxi intanto non era un populista. Craxi aveva un partito e guidava quel partito. Invece Renzi è un po' populista, eh. Ma diciamo che... Beh, insomma, Craxi è un po' populista. È un eretico della democrazia. No, Craxi non era populista. Beh, insomma, un po' sì, un po' sì. No, no, non lo era, ma non lo era sul serio. Scusi un attimo, ma non va riabilitato anche... non va ancora riabilitata questa figura di Craxi, secondo lei? Cioè, manca ancora qualcosa per la riabilitazione di Craxi? Manca il riconoscimento di un'azione politica. Però in Italia il socialismo riformista è sempre stato considerato... Sì, ma Craxi come figura, non va riabilitata in qualche modo? Cioè ancora manca qualche cosa per riabilitarla, o no? Va riconosciuto quello che ha fatto di buono per questa Italia. Io le potrei citare alcuni casi, andiamo da Sigonella al referendum sulla scala mobile. Insomma, se lei va al governo, Nencini, come erede... Queste cose vanno riscoperte. Perché sono buone cose per l'Italia. Se lei torna al governo, se lei va al governo in nome dei socialisti, ci va anche, va anche per ripercorrere la storia di Craxi, o no? No, io vado per scrivere, se mi riuscirà e se andrò al governo, una pagina nuova. Noi abbiamo un Pantheon che è un Pantheon articolato. Nel suo c'è Craxi, siamo un partito piccolo, ma siamo un partito dignitoso. Nel suo c'è Craxi. E in questo partito, è un partito, non è un museo e non è una fondazione storica. Però c'è Craxi nel suo Pantheon, Nencini, su. Nel mio Pantheon c'è anche lui, Cetturati, ce ne sono molti altri. Soltanto Però c'è socialista. Non c'è dubbio. C'è anche la storia socialista assieme ad altre storie. Senta, però per riabilitarla ci vuole una sola frase per concludere, secondo me, Nencini. Che lei dica una parola che è un po' tabù nella sinistra, cioè che Craxi fu ucciso dai giudici. Non è il mio pensiero. Non è il suo pensiero, ma qualche una mano gli hanno data pure loro, però. Beh, diciamo che spesso succede che la giustizia interpreta in maniera diversa le forme di reato. Allora esisteva il non poteva non sapere, oggi non poteva non sapere. Non è... Da chi è stato ucciso Craxi? Solo dalla malattia? Solo dalla malattia è stato ucciso Craxi? È stato ucciso anche dal dolore. Provocato da? Dal dolore provocato da una storia che tra il 1992, il 1995 e il 1996... ha scritto pagine importanti. Vabbè, insomma, lei non dice fino in fondo che la magistratura ha contribuito alla morte di Craxi. Beh, però era in esilio o no? Craxi? Sì. Craxi ha fatto una scelta che io non avrei, fatto. Cioè lei sarebbe rimasto in Italia a combattere la giustizia? Craxi ha sempre detto che faceva una scelta di andarsene in difesa della sua libertà. Sì. È una cosa apprezzabile perché era un uomo libero. Sì. Io non mi sono mai trovato in condizioni come quella e quindi mi è più difficile pensare alla scelta che avrei fatto, ma così, nudo e crudo, dico che sarei rimasto a difendermi in Italia. Ragazzi, la gente è micidiale però, la gente è micidiale. Cioè, ricevo degli sms ogni tanto che sono delle frecciate pazzesche. A proposito della vicenda di Craxi, Nencini, socialista di cui stiamo parlando prima, no? Uno scrive: speriamo che non si frega gli stessi sordi. Mamma mia. No, però voglio dire, non abbiamo capito se per Nencini Craxi era un fuggiasco in un esilio. Non si è mica capito. E vabbè, non si è voluto esprimere fino in fondo. Giuseppe dalla provincia di Chieti, 800 24 0024, non ci lasciate perché abbiamo ancora grandissime sorprese, caro Parenzo, se ti regge il telefono, ma prima o poi domani ti do una bastonata. Giuseppe, provincia di Chieti. Buonasera, dottor Cruciani. Eccolo qui, su. La sua zavorra, che le fa da aiutante, quest'anno che fa, lo mangerà il panettone? Chi è che non mangia il panettone? Io. No, lo sto chiedendo a lei. Il suo aiutante che le fa da zavorra? Lo mangerà il panettone? Ah, Parenzo. Rispondi tu, David. non lo so io, ma come si vive con dell'aria nel cervello? Come si fa a vivere con aria dentro il cervello? Come si fa? Guardi, c'ho il tic, bip, cioè non so cosa racconta questo. È curioso vivere con flatulenze dentro il cervello, è una cosa curiosa. Io vorrei parlare con il dottorino Cruciani, non con lei. Allora, dottorino Cruciani, come mai? Che vuole che lei? Quanto tempo potrà durare questo governo con a capo un filosofo comunista ed un comunista ricchione? Chi sarebbe il filosofo comunista, scusi, Bersani? Il filosofo, no, il comunista, no. Secondo lei, no, lei che è un... E l'altro che è un filosofo ricchione? Sì. Filosofo ricchione, sempre gentile lei, Giuseppe della provincia di Chieti, sempre, sì. Sempre molto tollerante. Un filosofo comunista ed un comunista ricchione, il tandem, no, l'accoppiata. Quello è il governo Bersani-Vendola, dice lei. Sì. Ma guardi che non sarà un governo Bersani-Vendola. Ah, non sarà un governo. Ma no, non sarà un governo Bersani-Vendola. Glielo dico io, la rassicuro, Giuseppe della provincia di Chieti, o come diavolo si chiama, la rassicuro. No, sa perché? Perché, mi dica. No, perché io, cioè, sentendo i miei amici, se vanno questi qua al governo, fra un anno avremo la tassazione al 90%, la disoccupazione al 25%, i clandestini con i figli che nasceranno qua a 10 milioni, poi prenderanno la cittadinanza, no? Poi le imprese ci rimarranno una diecina, scapperanno tutte all'estero, no? Sì. Poi succederà la guerra civile. La guerra, poi che altro ancora? Che altro ancora? Però questi qua non hanno calcolato, questo filosofo comunista, non ha calcolato il fango che riceveranno dal centrodestra, che farà un'opposizione di trincea. Di trincea, sì. E lei, lei sarà in prima fila, naturalmente, con la baionetta. Certamente. Io mi faccio rappresentare da un filosofo e da un ricchione, ma stiamo scherzando? Io questo lo voglio ingaggiare tutta la vita, Parenzo, Questo comico di Chieti. Sì, comico, questo... secondo lei comico? No, ma lei è di una straordinaria comicità, per cui qual è il problema? Cioè... No, non sono comico. Cioè lei dice che sarà in prima fila comunque, sarà lì a combattere in prima fila, giusto? Cioè a gettare in faccia il fango a questi terroristi. Tanto fango, quando quello che hanno detto loro a Berlusconi, cioè, li dovremo ridicolizzare tutti i giorni. Tutti i giorni. Cioè a livello internazionale. No, perché a un anno non ci arriveranno. A un anno non ci arriveranno. Parenzo? No. Parenzo, che vuoi dire al signor Giuseppe della provincia di Chieti? Voglio capire dal cervellone, dal fine cervellone che lì, se lui è diventato così nel tempo, oppure se è proprio nato come un coglione. Voglio sapere solo questo. Ma con rispetto, Dottor Cruciani, quando parli la sua zavorra, i suoi tande, cioè che si spaccia pure per dottore, l'ha chiamato dottore una sera, ma che dottore, si è laureato, dove si è laureato? Ma lei, cioè voglio dire, la flatulenza, come quando le esce dal cervello, come funziona? Cambi mestiere, che è sempre in tempo a cambiare, perché se arriviamo noi dovrà andare a zappare. Ma voi chi? Dove? Arriviamo noi chi? Ma noi chi soprattutto? Io questo non capisco, noi chi? Scusi, faremo il biglietto per la Siberia a tutti i bolscevichi. Ah, capito? Poveretto. Il biglietto glielo paghiamo solo andata a lui, a Prelese, ai suoi derelitti amici, no? Ma perché, perché lei non si incazza con il signor Cascio, PDL? Signor Cascio, rivolgi... Parenzo, fai un appello al signor Cascio, caro signor Cascio. Caro signor Cascio. Caro signor Cascio, il tuo tempo è scaduto, caro Cascio, scaduto, ti fai le vacanze di Natale in un bellissimo manicomio criminale. No, vabbè, Cascio. Che c'entra? Ma no, ma Cascio è il presidente l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che c'entra il manicomio criminale? Scusa, abbi pazienza. Perché se uno non rifiuta i favori, diciamo così, questi che sono chiaramente degli arricchimenti non dovuti, dei privilegi non dovuti, deve finire al manicomio con l'antipolitica che sta montando. E Crocetta soprattutto dovrebbe essere il primo a prendere per le orecchie il signor Cascio, l'amico Cascio. Ma non avrà nessuna possibilità, perché quella è l'assemblea regionale, quello è il governo regionale. Lui dovrebbe essere di sua spontanea volontà a dire: cazzo, io non posso avere tutta questa roba qui, gli assistenti, le cose, visto che non faccio, non ho neanche più quella funzione. Lui dovrebbe essere, lui, hai capito? Lui. Stanza, auto, autista e assistente. Beh, l'autista è chiaro, se c'ha l'auto non è che la guida da sola. Stanza, auto blu, autista e assistenti. Praticamente gli stessi benefit di prima, il signor Francesco Cascio, ex... Ma lui deve essere abbandonare questo, lui. Giuseppe? Sì. Allora? No, dicevo, sta arrivando una camomilla per questo qua, questa sua zavorra, perché questo è talmente eccitato per la vittoria... La vittoria del filosofo comunista, no? Sì. Che se l'è fatto sotto, lo vedo troppo eccitato. C'è chi? Parenzo, dice lei? Sì, l'aiutante. No, ma scusi, Luciano, lo paga lei a questo qua? Ma io no, lo paga l'azienda. Ma no, io mi chiedo, ma come fa Radio 24 a pagarlo a questo qua? Non lo so. Lo paghiamo. Me lo chiedo anch'io. Giustamente lo paghiamo. Non ho mai capito, guardi. Lo so, che dobbiamo fare? Faccia una lettera, scriva una lettera. Ma scusi, se non ci... scusi un attimo, se non ci fosse Parenzo, lei che diavolo telefonerebbe? No, cioè... non lo sento quello che dice. Ma che bip, lei si diverte come un matto, chiama incazzato come una bestia per quello che sente e insulta Parenzo, cioè lei si diverte come un pazzo. Se non ci fosse Parenzo, no, lei... racconta il mio aiutante, quasi ci prego all'aiutante. Ma se lei, non è, se lei non, lei non ha niente da fare la mattina alla sera, che cosa se non ci fosse Parenzo, cioè lei come pensa che non ci abbia niente da fare la mattina alla sera? No, almeno per un paio d'ore durante la giornata. Ma non guardi, sai dove sto io adesso? Dove sta? Vuoi sapere? Dove sta? Io sto all'ufficio a fare delle relazioni, perché c'ho un ufficio tecnico. Capito Parenzo, ufficio tecnico a fare delle relazioni. Sto a lavorare. Sta a lavorare, vabbè. Non sta a dire stronzate che dice, tipo quelle che dice il suo aiutante. Oh, ma questo dice stronzate a livello industriale. Domani vado al mare, al nido nucleare, mi porto il salvagente. Se la Sicilia fosse piena di centrali nucleari, lei sarebbe contento? Felice, non contento. Però attenzione, centrali nucleari controllate, costruite da veri scienziati, non per esempio io. Mi aspettano gli amici. L'energia nucleare dà a quella forma di materia vivente chiamata io e lei un milione di volte. Immagini di avere una macchinetta, mette un euro ed esce un panino, un'altra macchinetta identica mette un euro ed escono un milione di panini, quale sceglierebbe lei? Questo vuol dire energia nucleare. Però energia nucleare in mano a veri scienziati, non a persone che parlano di scienza per sentito dire. Nell'acqua più profonda, tra latte di alluminio. Quindi io difendo l'energia nucleare, sì, Petti. Sarebbe, veda, la sicurezza delle centrali dipende dalle scelte che determinano chi comanda in quel settore. Questo sul nucleare, ma c'è dell'altro, eh? A un certo punto dice: la prima cosa che farò, se poi rimarrà assessore, perché dopo queste cose bisognerà vedere, la prima cosa che farò da assessore, io spero di sì naturalmente, se rimarrà assessore, voglio fare l'assessore nomade in pratica. Cioè voglio visitare i 50-60 grandi tesori della Sicilia misconosciuti all'estero. E insomma, visitarli, perché è da 20 anni che non li vede. La Sicilia ha preziosi tesori culturali, ma non lo sa nessuno. Io farò un giro di tutti i tesori siciliani, su questo non c'è. Visiterò i tesori della cultura siciliana dimenticati. Devo vedere qual è lo stato dei tesori culturali della Sicilia. Saranno 50-60, ma sono ciascuno un tesoro. I tempi da Rivento, fantastico. Devo andare a vedere qual è lo stato, li ho visti 20 anni fa. Zichichi forever, per sempre, caro Parenzo, per sempre. Siamo al top, siamo al top. Dimmi. Ma la cosa fantastica è quando dici centrali nucleari fatte da scienziati. Dici, ma chi dovrebbe farle? Un autofero tranviere? No, lui dice governate poi dagli scienziati. Non dice solo quello, è lucido in questa cosa qua. Cioè lui pensa che gli incidenti li ha elencati, Chernobyl, Three Miles Island, quello che è, Fukushima, eccetera, sono stati provocati sostanzialmente dall'uomo, non dalla tecnologia, non da cause naturali, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente dal fatto che quelle centrali erano gestite da incompetenti, da gente che non lo sapeva fare, insomma. No, bisogna darle in mano a scienziati veri, forse solo a lui, bisogna darle in mano a lui. Massimo da Forlì, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Salve. volevo chiedere a Cruciani, sapendo che doveva correre la maratona di Firenze, l'ha fatta poi? No, ne ho fatta a metà. Ma non è importante, vabbè. Non mi sembra. Vabbè, no, perché io non ne parlano in mezzo alla strada. Ho una naturale simpatia per chi le corre o per chi si diventa. Però volevo chiedere, volevo chiedere sul Movimento 5 Stelle, da uomo della strada, da banale uomo della strada, quale sono io. Comprendo molto bene che cavalcano un malcontento che è generale e che è reale, ma la proposta qual è? La proposta qual è? Uno potrebbe rispondere, c'è un programma su internet, alcuni dicono è un programma che è una sorta di follia, altri dicono invece è perfettamente realizzabile, altri dicono è solamente una questione sono dei semplici pronunciamenti, eccetera, eccetera. E perché proibiscono ai loro rappresentanti di porsi al cospetto della stampa, a motivare, a argomentare, come hanno fatto ad esempio il PD? Io le premetto che sono di destra, quindi... Però il vincitore delle primarie della sinistra certamente è stato il Partito Democratico, non Bersani o Renzi. Però si sono sottoposti e si sono fatti vedere, in sostanza. Sono disperato per quel che riguarda la destra, per la verità. Va bene, ho capito. Grazie, grazie Massimo. Giancarlo dalla provincia di Cuneo. Buonasera Crociani. Senta, il suo assistente riesce a fare 2008-1961 a memoria? Glielo faccio io, fa 47, sono gli anni, l'età a cui Barack Obama è diventato presidente. Ora, Bersani, se non sbaglio, è del 1951, quindi avrà 62 anni quando diventerà presidente del Consiglio. Allora? Questo per dire che quelli della sinistra, oltre che a bruciarsi l'occasione di fare un rinnovamento, si sono pure bruciati Renzi, perché quando Renzi arriverà a governare avrà qualcosa come 45 anni, perché adesso governeranno 4 anni quelli della sinistra, poi torneranno 4 anni quella della destra e loro si saranno bruciati l'unica occasione che avevano per fare un vero rinnovamento, non continuare a far fare il ministro a Giuliano Amato come vuole il sedicente presidente di quel partito socialista che ha parlato 3 minuti fa lì da lei. Volevo una sua opinione su questo fatto, cioè sul fatto che questi signori continuano a dominare in Italia e non ce li toglieremo mai. Ma questi chi? Questi signori chi? 75 anni come Berlusconi, ma anche 63 come Bersani. Vabbè, ma lei mette tutti insieme, Bersani, Berlusconi, eccetera. Un solo cuore, un'unica idea. Bersani che oggi ha detto non vedo l'ora di sfidare Berlusconi se sarà lui il mio avversario. Ma perché mentre parli di Bersani c'è questa musica di Scilipoti sotto? Perché? No, per carità, non volevo fare dei riferimenti e dei collegamenti tra Scilipoti e Bersani. Perché la voce che ha realizzato l'inno di Scilipoti è quella, te lo ricordi, del mitico Danilo Amerio, no? Sì, come dimenticarlo? Danilo? Frank Sinatra italiano. Danilo? Ciao, ciao Giuseppe, come stai? Bene, tu? Bene, mitico. Allora, bene, cioè, ho un po' di paura, devo dire, perché? A parlare non tanto con te quanto con Parenzo, perché no, può essere molto pungente. No, ma guarda che Parenzo, a parte che adesso oggi è mogio là in Pullman, l'abbiamo sterilizzato un po'. Ma sai perché? Perché ho fatto il vaccino, no, questo è vero, ho fatto oggi pomeriggio anch'io il vaccino. Ma scusa, non era tua figlia che faceva il vaccino? Sì, beh, anche, ma l'ho fatto anche per me. E mi sento più rincoglionito del solito, ti giuro, sai quando ti senti vicino? Mi sento veramente. Allora possiamo parlare, capito? Mi sento come quell'ascoltatore Giuseppe che ha chiamato perché lui è uno stato permanente. E io mi sento come Giuseppe in questo momento. Scusa, caro Danilo, vogliamo annunciare Urbi e Torbi che tu non solo hai realizzato questo inno, che per me resta sempre uno dei migliori a livello canoro, tra i lini dei movimenti politici. Tant'è che noi lo mandiamo spessissimo, come sai, perché tu sei un nostro ascoltatore. Però hai realizzato una cosa per cui non mi do pace. Francamente, non mi do pace. Parenzo, lo sai che cosa ha fatto? Spero lautamente pagato, spero lautamente pagato. Pare di no, invece, pare di no. Mi segnalano di no. Dal vetro mi segnalano di no. Ha realizzato l'inno del movimento, del partito, movimento, chiamalo come ti pare, del movimento di Magdi Cristiano Allam. No. Sì. Ti ho lasciato senza parole. Danilo, ma come hai fatto? Spiegami come è stato possibile tutto ciò. Ma perché fa queste cose? No, ma io capisco Scilipoti perché è diventato un must. D'accordo, Scilipoti è un must, non so caratteristiche. Guarda, io mi sto divertito tantissimo con Scilipoti, perché quando urlava quanti soldi di onnipotenza, Parenzio sbagliando ovviamente anche il cognome, è stato veramente divertente. Però in questo caso ti assicuro che io ho conosciuto Matti in una manifestazione quale? Manifestazione si intitola Premio Penisola Sorrentina. Ah, ok. Questa manifestazione ci ha premiati, io per la musica, per la poesia delle mie canzoni, e lui per il suo impegno politico e quant'altro. E devo dire che ho apprezzato immediatamente intanto lui come persona, perché quella persona è splendida, è veramente splendida. È splendida. Quello che dice in maniera fantastica. Beh, diciamo che ultimamente ha preso una china un po' particolare il signor Allam. Sì. Parla di sovranità, di euro, sovranità monetaria, di ritorno alla lira, cose di questo tipo. Vabbè, comunque ognuno ha le sue fissazioni, ognuno ha i suoi convincimenti. Ecco, però Danilo, io voglio capire. Lui crede molto in quello che sta dicendo, per carità, certo, con sostenuta veemenza e non con studiata ipocrisia, perché questo è il problema di molti politici. Sì, ma si può credere a tante cose, non è mica detto, per carità. Ma poi io non voglio contestare adesso, apriremo un discorso infinito. Ma poi nessuno di noi è assolutamente depositario di verità. Perché ti ha convinto a fare un inno per il suo movimento? Spiegami, come è accaduto? Come è potuto accadere? Spiegami. Intanto proprio per amicizia, perché per amicizia. Una persona splendida, lo ribadisco, perché è veramente una cosa in cui credo, e più che convincermi mi ha coinvolto nelle sue idee. Cioè, tu sei diventato un adepto di Io Amo l'Italia? No dai, guarda, Danilo, su, non mi dire queste cose, dai. Allora, alcune cose che penso possono sembrare di sinistra e altre di destra, anche perché io nei confronti della politica non ho un atteggiamento unilaterale, non l'ho mai avuto. Sì, però dimmi, penso in modo logico. D'accordo, però dimmi, tu hai preso una tessera, ti sei iscritto, insomma aderisci a Io Amo l'Italia? No. Io non sono da nessuna parte, non mi iscrivo da nessuna parte. Quanto ci hai messo a scrivere questo inno? Beh, questo era una musica che avevo già, ovviamente. Ecco. E insieme a lui ed altri autori come Umberto Ferrara, Felipe Villacqua, abbiamo fatto una. Insieme a lui chi? Insieme a Magdi, sì. Insieme a Magdi hai fatto il testo, hai scritto il testo? Il testo, sì. Cioè, il testo è una, come dire, una. Il frutto di più menti. Di più menti. Io lo so che tu mi stai prendendo per il culo, però non raccolgo. No, non ti sto prendendo il culo, perché ti assicuro che io ancora non l'ho ascoltato, perché l'hanno preso i nostri collaboratori. E non l'ho ascoltato, e facciamo sentire qualche pezzo, ma magari ce lo canti tu. Però voglio capire se è meglio questo o meglio quello di Scili. Sentiamo. Io amo. Il cuore grande di poeti e marinai, mille anime di eroi, Parenzo, qui se la batte. Però io devo dire la verità, che tra tutti gli inni questo qua è quello di, adesso non perché c'è Amerio qua, ma oggettivamente non ho capito le parole, io riconosco, adesso non lo sto pigliando per il culo, davvero riconosco un livello superiore rispetto, siamo sempre nel campo dell'horror, cioè per quello che mi riguarda, però riconosco un livello artistico superiore, su questo non c'è dubbio, a livello di voce. Beh, cioè vorrei mettere quello, oppure vorrei mettere questo qua, l'inno, come si chiama questo qua? Questo si chiama Io Amo l'Italia. Ah, Io Amo l'Italia, come il partito. Vabbè, inventatevi un'altra cosa, però. Esattamente. No, io sono. Ma quello che parla dell'amore per l'Italia. Io amo l'Italia. Canta con noi, Parenzo. Ma non so le parole di questo. Amo l'Italia. Cos'è? Non capisco. Danilo, vai tu. Come fa? È una come fa? Di metrica, una questione di metrica. Io amo l'Italia. Per forza. Beh, bella, bella, bella io questa cosa. Amo l'Italia. No, ma non la sai fare tu. Com'è, no. Fammi un altro passaggio, Parezzo. Scusami, Danilo. Ma non con la CL. Lui dice amo l'Italia. Non si può dire. Quella è l'Italia. Amo. L'Italia è il titolo di un film. Comunque, qualcuno mi ha scritto: Danilo, non posso credere che sei passato. Sarà un tuo amico. Sei passato da Bertoli ad Allam. Perché poi Danilo Amerio, adesso lo stiamo pigliando un po' in giro per questa storia dell'Inni. Ma in realtà ha scritto per Anna Oxa, certo. Per Fausto Leali. Credo anche per Bertoli, da quello che scrivono. No, ma è lui che ha scritto Bertoli, assolutamente. Eravamo molto amici con Pierangelo, sì. Ma sei passato da Bertoli, Anna Oxa e Fausto Leali a Scilipoti e Magdi Cristiano Allam, Danilo. Hashtag tutto finito, però, tutto finito. Però non bisogna fare gli snob. Non bisogna fare gli snob. Adesso voglio sentire un altro passaggio del mitico Allam. Vai. Quella che vuoi, se vuoi. Ma tu parli con me? Vai, Danilo, sì, certo. Quindi ti fammi devo un cantare pezzetto, un'altra parte. Fammi un pezzetto, dai. Un'altra parte, ma dice: noi che siamo nati sotto questo cielo azzurro cartolina. Vai, come fa? Noi che siamo nati sotto questo cielo azzurro cartolina, come un dipinto di Dio. E noi abbiamo dei paesaggi che sono veramente un dipinto. Eh beh, siamo al top. Forse è meglio questo. Tu che cosa scegli, Parenzo? Meglio questo o quello di Scili? Ma quello di Scili. Quello di Scili, no, è meglio. No. Però è vero ma che ti anche sei. Anche per le parole. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Il delirio per mari e figli e per chi ancora vivrà. Danilo, scusami un attimo, è vero che Scilipoti ti ha pagato e invece Magdi no? Dimmi la verità. Allora, nessuno mi ha pagato. Ma come no? Scilipoti mi ha detto di sì, dai, su. Scilipoti è stata una... mi sono inciampato in un'amicizia comune. Pure? Ho inciampato... Ma tutti tu li conosci, Ah, cosa pazzesca, dai. Che mi ha fatto fare questa cosa. Io Scilipoti l'ho conosciuto solo in un secondo tempo e devo dire che quando l'ho conosciuto mi sono divertito anch'io. È scoccata, come noi, d'altra parte, è scoccata la relazione. Bravo. Scusami, bravo. Danilo, però qualche soldo Scilipoti te l'ha mollato, su. Ma no. No, ma ha venduto, cioè i soldi da qualche parte ti arrivano o no? Cioè, hai fatto dei soldi con Stigni? Ma io, sai, scrivo, io sono un autore di canzoni, gioco con le parole, mi diverto e faccio musica da 35 anni e devo dirti che lo faccio, non lo faccio gratis ovviamente, perché no, beh, è il certo. Mestiere. Però i soldi della SIAE mi arrivano dai successi che ho scritto. Io ho collaborato con Tozzi, Raf, Masini, Mia Martini, per cui voglio dire che comunque ho un curriculum di un certo tipo e ovviamente i soldi mi arrivano da quelle cose. Capito, Parenzo? Non certo dall'inno. No, ma voglio dire, perché Danilo devi lasciare, ma anche i tuoi figli, chi ti vuole bene, il ricordo di aver lavorato con Scilipoti? Questo è il punto, vero? Capito? Guarda, io qui devo darti purtroppo ragione, nel senso che in quel caso lì non sono un uomo come te, un paroliere, capito? In quel caso lì, come te. In quel caso lì non ne vado fiero, ovviamente. Ah, non vai fiero dell'Inno di Scilipoti, dai, sei rinnegato. No, perché no? Perché lui politicamente è assolutamente incomprensibile. È invece più comprensibile Magdi Allam. Magdi Allam, non politicamente, dai, ma umanamente, intanto. Ma è più simpatico Scilipoti, non Magdi Cristiano Allam. Magdi Cristiano Allam è simpatico perché fa ridere, ma Magdi è intelligente. No, Magdi vabbè, è uno che ama veramente il paese, che non è il suo, peraltro, che lo è diventato in un secondo tempo, ma non è il suo. Quindi detto da uno ti come faccio lui, sentire una frase che ha detto recentemente, dai, ti faccio sentire una frase che ha detto recentemente il signor Magdi Allam. Mettetela sulla canzone in conclusione, vi prego, mettetela sulla canzone. Io amo l'Italia, come no. L'euro è un cappio che oggi ci costringe a dipendere dal signoraggio bancario della Banca Centrale Europea, delle banche commerciali. È come Marra, Amerio, vabbè. Caro Danilo, t'abbraccio, a presto. Dai, ti ringrazio, ciao. Vengo a trovarvi presto di persona, voglio conoscervi devi, bene. Devi, grazie. Parenzo, ciao David, ciao. David, ci sentiamo domani alle 18.30, ciao. Quanto tempo potrà durare questo governo con a capo un filosofo comunista ed un comunista ricchione?